PrendiDB nasce ormai quasi 8 anni fa, principalmente come piattaforma on demand dedicata al cinema indipendente, di cui anche noi facciamo parte come SMK Factory, in quanto nella vita, tra virgolette, ci occupiamo di produzione di film e documentari. Questi anni ovviamente è un portale che è cresciuto molto, anticipò tante pratiche che adesso per fortuna sono di uso molto più comune, sia rispetto ai sistemi digitali, sia anche rispetto a un modello alternativo di distribuzione non direttamente concentrato su una logica di mercato. La strada che abbiamo fatto è stata tanta, oggi il catalogo non solo continua ad avere film e documentari indipendenti, ma anche una sezione editoriale, a un blog, a tante altre sezioni collaterali, e ha accolto anche autori importanti come Rezza Mastrella, piuttosto che adesso di recente anche Maestro Franco Piavoli. E la cosa bella, che almeno che noi crediamo sia importante, è quella non solo di aver creato un sistema digitale di distribuzione delle opere, ma anche di aver fatto un ragionamento preciso in controtendenza con i mainstream della distribuzione internazionale alla net. Tornando un po' invece al momento storico che stiamo tutti e tutte vivendo, come avete risposto all'attuale chiusura dei luoghi di cultura, delle sale cinematografiche e di tutti i festival e le realtà culturali? Ma allora, anzitutto vi invito caldamente ad andare sul nostro blog, su opendb.it, a leggere il nostro comunicato stampa completo, trovate nella prima sezione del blog. Fondamentalmente i dati secondo me sono due: da un lato la chiusura già di marzo chiaramente ha segnato un danno gigantesco per tutto il cinema, e non solo il cinema, perché ovviamente il stesso discorso vale per il teatro, per la musica e quant'altro, e anche mainstream, perché ovviamente io ho dei forti dubbi che anche quello mainstream riesca a sopravvivere, ma questo è un altro tema. Siamo stati tutti fortemente colpiti, noi ad esempio eravamo usciti da pochissimi giorni con The Milky Way, che era il nostro nuovo film di punta, sia come produzione che come distribuzione, e quindi sappiamo bene quanto sia stato duro il colpo. Periodo poi tra maggio e ottobre c'è stata una timida riapertura di questi spazi culturali e delle sale, e siamo riusciti a ripartire anche noi, anche con Milky Way, ma anche con tutto il resto del catalogo. E dico questo, attenzione, perché sebbene noi ci occupiamo di streaming, per noi rimane fondamentale tutt'oggi mantenere un asse di equilibrio con quello che invece è la vita reale e le proiezioni nei territori dei nostri film, perché è lì che in realtà si gioca la partita della condivisione in senso più ampio del valore che questi film indipendenti come i nostri, ma come anche tanti altri autrici e autori sparsi per il mondo, hanno. Chiaramente la nuova chiusura è stata una doccia fredda, anche perché non devo spiegarvi, oltre al danno che tante realtà hanno subito, anche quanto sia stata faticosa la riapertura dei mesi scorsi, con tutte le normative, le messe a norma, e che sono così si traducono anche in costi ovviamente per poter riaprire. Diciamo che ma quello che si vede anche un po' nel nostro comunicato stampa è un'analisi, cioè noi abbiamo cercato di mettere in campo quello che è un ragionamento politico. Noi non siamo né medici né scienziati, quindi non ci spingiamo in questo momento a fare una valutazione su cosa sia necessario fare a livello di contenimento di questa pandemia. Non sappiamo se è il caso che vada chiuso tutto, se vada lasciato tutto aperto, se vada chiuso qualcosa sì e qualcosa no. Quello che sappiamo invece, ed è questo il punto da cui partire, è che ormai è completamente evidente una cosa che sospettavamo già: la società in cui viviamo, e di conseguenza anche la classe politica che da diversi decenni sta al governo in Italia e non solo, vede come un passo automatico quello di sacrificare tutto quello che riguarda gli spazi di socialità e di cultura e di condivisione rispetto a quello che invece sono i luoghi della produzione economica in senso stretto. E da questo ragionamento bisogna partire, secondo me. Nella consapevolezza che, come ti accennavo, è un equilibrio molto, molto delicato, nel senso che sebbene noi siamo stati, se vuoi anche senza arroganza, lo dico, dei pionieri rispetto a quello che è l'on demand dei progetti indipendenti, perché 8 anni fa la situazione era chiaramente molto diversa da oggi, crediamo fortemente che non sia assolutamente una risposta. Lo streaming di comunità che abbiamo lanciato il 7 marzo è stata una risposta di pancia, che siamo orgogliosi di aver fatto, soprattutto perché ha sdoganato un ragionamento di accessibilità gratuita che poi è stato replicato da tantissime altre realtà sul territorio nazionale, e noi siamo molto felici di aver contribuito in questo caso con forza a fare in modo che si aprisse questo ragionamento in un momento di emergenza. quello streaming esperienza è durato 64 giorni ininterrottamente, giorno e notte, con oltre 150 film proiettati online gratuitamente, e poi dopo l'abbiamo interrotta nella consapevolezza che in realtà era una ulteriore passo di un approccio che noi in realtà abbiamo già sul nostro catalogo. Se voi andate sul catalogo, qualsiasi opera è accessibile con una donazione libera, quindi già quel ragionamento di accessibilità garantita a prescindere dal reddito che una persona ha è già la colonna portante della filosofia del nostro portale fin da quando è nato. Diciamo che adesso non è probabilmente più tempo di mettere in campo azioni di emergenza, anche perché sennò rischiamo di proseguire anche nelle nostre teste, se vogliamo anche quasi a livello psicologico, questa percezione di un'emergenza diffusa, che comunque evidentemente c'è, però è arrivato il momento probabilmente di trovare delle soluzioni, di trovare delle strade nuove. Noi in questi anni, per esempio, abbiamo sempre molto insistito sulla necessità di immaginare dei percorsi di distribuzione cinematografici che coniugassero la sala reale con quella digitale. Tutti discorsi che spesso venivano, come si dice, rigettati da un sistema classico che era già profondamente in crisi, adesso la sfida sta a riprenderli in mano senza che questo significhi essere fagocitati dalle major. Perché se c'è un dato è inequivocabile è che tanto quanto ci sono un sacco di cinema de sé che rischiano di chiudere, dall'altra parte il fatturato di Amazon Prime, di Netflix e di tutti questi sistemi internazionali si sono quintuplicati grazie alla pandemia. Quindi la risposta non è, può essere certo quella lì. La risposta è quella di trovare nuove soluzioni, nuove strade che mitighino, in qualche maniera contaminino un approccio digitale con uno in presenza, come si è imparato di questi mesi, ma sempre facendo una fortissima attenzione a quello che è un po' il ragionamento che noi teniamo alla base. Gli strumenti digitali sono tanti, gli strumenti in generale di comunicazione, di diffusione e di distribuzione sono tanti, non basta quello, bisogna anche porre l'attenzione al come li utilizzi e al tipo di immaginario politico che ci costruisci dietro. E quindi la sfida rimane quella che noi abbiamo lanciato ormai 8 anni fa, andare oltre una logica di mercato consumistico per cui se tu non hai quegli 8 euro per andare al cinema non puoi decidere un film. Questa cosa è il perno del ragionamento, è l'unica cosa positiva che io vedo in questa situazione, che è altamente negativa, chiariamoci, nel senso che qua c'è il rischio di una desertificazione fortissima, soprattutto del panorama indipendente, produttivo, distributivo di sala. L'unica vera nota positiva è che in momenti come questo, dove tutto viene rimesso in gioco, puoi provare a rimappare un perimetro d'azione e di legittimità, e quindi dobbiamo essere tutti molto pronti, perché il rischio è che poi appunto vada a gioco di poche realtà, spesso transnazionali ormai, come si dice, e che sicuramente non hanno a cuore quello che è il valore della produzione, della distribuzione e della condivisione di progetti culturali, ma hanno a cuore il mero profitto business. Sfida secondo me è anche quella adesso di provare a mettere in connessione diverse esperienze. Purtroppo non è sempre facile, non c'è nulla di male, per carità, anche perché veniamo anche da mondi molto diversi, che però in realtà forse a volte non lo sono così tanto. Ci sono gli stessi problemi che vivono oggi, per esempio, le sale cinematografiche e i teatri, li vivono oggi anche gli spazi culturali e gli spazi sociali, cioè quel tipo di chiusura, al di là del modello che uno negli anni costruisce per tenere aperto e vivo un proprio spazio di aggregazione. C'è bisogno, secondo me, non tanto per forza di unirsi o di fare ragionamenti di questo tipo, perché va tutto capito, ragionato, eccetera, ma perlomeno di aprire un confronto, anche perché abbiamo visto qual è la retorica che spesso i media nazionali e non solo hanno usato. Hanno racchiuso tutte queste galassie di esperienze, di contaminazione e di creatività artistico-culturale e sociale dentro la parola movida. Non possiamo accettare questa cosa, non può essere tutto ridotto a questo. Fermo restando che anche quello è un diritto, perché se allora la nostra vita si riduce a avere semplicemente il diritto di uscire per andare a lavorare e poi tornare a casa, ci sarebbe da discutere anche di quello. Ma andando per gradi, il vero problema principale è che tutto è stato racchiuso dietro quella parola, che ovviamente sminuisce completamente tutti questi mondi, tutte queste galassie e tutti questi spazi di socialità e di aggregazione e di contaminazione culturale, che sono ben altro rispetto a uno spritz sui navigli.